Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In sommario oggi il punto sulle misure a sostegno dell'autotrasporto. Dopo l'incontro tra le associazioni e il sottosegretario Simona Vicari, parliamo di nuovo di intermodalità, mare, gomma, spazio poi alle nuove misure di sicurezza nelle aree di servizio autostradali in queste settimane di grande traffico e quindi un faro sul futuro delle case cantoniere. I decreti attuativi delle norme previste dalla legge di stabilità in materia di autotrasporto sono stati al centro della riunione che si è svolta al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture tra il sottosegretario Simona Vicari e i rappresentanti delle associazioni. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cabotaggio abusivo e dumping sociale. Il punto con Amedeo Genedani, presidente di Unatras e Confartigianato Trasporti. Ad oggi, per fare il punto della situazione, abbiamo capitalizzato, quindi già stato capitalizzato e pubblicato, il decreto autostrade, il decreto formazione è in via di pubblicazione, il decreto che citava e ratificava le spese non documentate, le SSN, è già stato capitalizzato sempre dalla categoria, ci manca la pubblicazione del decreto investimenti che è in via di registrazione alla Corte dei Conti e Faro Bonus dovrebbe presumibilmente uscire verso settembre. E il mare bonus si parlava di fine settembre, primi di ottobre, quindi dovrebbero essere addirittura d'arrivo, diciamo, anche questi nuovi capitoli di spesa su cui abbiamo ragionato più di una volta. Sulla questione del dumping sociale, noi a sottosegretario abbiamo chiesto che venga introdotta anche in Italia una norma a difesa dell'autotrasporto nazionale in linea con quanto ha fatto la Francia con la legge Macron. Resta invece al palo la questione della decontribuzione e della defiscalizzazione per gli autisti impiegati all'estero, un intervento sollecitato dalle imprese per contrastare la concorrenza sleale praticata dagli operatori degli altri paesi agevolati da condizioni più favorevoli. Il provvedimento però non ha ottenuto il via libera da Bruxelles. Questa qua è una partita abbastanza annosa perché così come era stata sancita sembra che ci siano dei grossi problemi soprattutto da una valutazione fatta dal Ministero del Lavoro che l'INPS nutrono forti dubbi circa la compatibilità con la normativa comunitaria. Quindi sarebbe da riscrivere, sarà difficile riscrivere e trovare la forma giusta, quindi noi abbiamo proposto di portare avanti questa decontribuzione sotto forma di aiuti di de minimis per l'anno in corso, almeno intanto recuperiamo una parte di questa decontribuzione. Un tema caldo riguarda le conseguenze indotte dall'obbligo di pesatura dei container all'imbarco sulle navi entrato in vigore il 1 luglio. Una novità introdotta per ragioni di sicurezza sui mercantili per scongiurare nuovi incidenti dovuti al sovraccarico che monitoriamo ormai da settimane. In alcuni scali la situazione rimane critica con code e ricadute sulla viabilità portuale. Su richiesta delle associazioni dell'autotrasporto il 4 agosto è stato convocato un tavolo al Ministero dei Trasporti al quale parteciperanno i terminalisti, rappresentanti delle autorità portuali e della Capitaneria di Porto. Anche su questo punto ascoltiamo Amedeo Genedani, presidente di Unatras. Quello che noi chiediamo, come abbiamo sempre chiesto, è quello di non essere responsabili, visto che la normativa dice che l'autotrasportatore non è responsabile, l'autotrasportatore non deve essere responsabile né per incassare di maggiore somme di soldi, quindi anticipando soprattutto i tempi che non possiamo stare in coda a pesare, a perdere del tempo, quindi perdiamo nell'ambito di una giornata una parte importante di lavoro. Mare bonus e ferro bonus sono gli incentivi previsti dalla legge di stabilità a favore del trasporto intermodale, quindi di trasporti nel segno della sostenibilità. Ne beneficeranno gli autotrasportatori che trasferiranno le merci dalla gomma al treno o alla nave. Il governo ha stanziato risorse per quasi 200 milioni in 3 anni. I decreti, come abbiamo sentito, saranno varati tra settembre e ottobre. Su questi incentivi e sullo sviluppo delle autostrade del mare nel Mediterraneo abbiamo intervistato il presidente di Confitarma, Emanuele Grimaldi. Quello italiano è sicuramente un sistema, un'eccellenza, non solo per lo sviluppo delle autostrade del mare, ma anche questo sistema di ecobonus è un sistema molto giusto perché prima di tutto dà il vantaggio all'autotrasporto, come è giusto che sia, perché sono i fruitori di questo tipo, ma soprattutto lascia inalterata la possibilità all'autotrasportatore di scegliere lui la linea dove vuole andare. Non è che tutte, diciamo, che bisogna obbligare a prendere una linea anziché un'altra, cioè è importante non, diciamo, intervenire sulla concorrenza, che è un altro principio molto sano. I numeri dicono che ogni anno sulle navi al mondo viaggiano 40 milioni di mezzi pesanti, tre quarti dei quali, quindi 30 milioni, arrivano, partono dall'area euro-mediterranea. Significa che l'Italia è un po' al centro di questo traffico. Sì, sicuramente l'Europa è sicuramente al centro. L'Italia lo è anche certamente, e direi un po' in tutti i settori, che si va dalla costruzione di queste navi, dove l'Italia è il secondo paese al mondo per questo tipo di navi. Fincantieri, altre eccellenze italiane costruiscono moltissime di queste navi veloci che permettono questi trasporti. Gli armatori, diciamo, gli armatori italiani sono i primi al mondo sulle autostrade del mare come proprietà di mezzi. Dal mare di nuovo alle strade. Siamo entrati nell'ultima settimana di luglio, quindi seguiranno giorni di grande traffico nel nome di quello che, seppur con proporzioni e ritmi diversi rispetto al passato, viene ancora definito il grande esodo dalle città verso le località di villeggiatura. Per la cronaca, l'unica giornata da bollino nero sarà sabato 6 agosto. Per garantire più sicurezza a chi transita sui nastri d'asfalto arroventati dal caldo e dai grandi flussi di veicoli, Autostrade per l'Italia ha avviato una serie di iniziative. Una in particolare è rivolta agli autotrasportatori per garantire più protezione ai carichi in sosta. Nelle zone di parcheggio di 30 aree di servizio sono state installate telecamere di sorveglianza che potranno essere visionate direttamente dal proprio cellulare attraverso l'applicazione MyWay. Ci spiega meglio Sergio Berti, direttore centrale Operations di Autostrade per l'Italia. Quello che stiamo facendo è potenziare le aree di sosta, cioè le aree di servizio dove c'è la presenza del food e dell'oil, e in queste aree in particolare stiamo implementando, ne ho già fatte 30, un servizio di telecamere dome dalle torri faro, che permette alle persone, a questi automobilisti, che quando si staccano sono le telecamere real time, quindi questi automobilisti quando si staccano per dover andare in bagno, per dover andare a mangiare un po' di pasta, accendendo la nostra app possono vedere la situazione del loro camion e quindi fare un self control, un autocontrol della situazione del camion in tempo reale. Questa è una cosa che è stata apprezzata anche dalle associazioni degli autotrasportatori che incontriamo circa 2 o 3 volte l'anno. L'idea è estendere queste telecamere in tutte le aree di servizio in maniera tale che loro possano in qualche maniera controllare il loro camion, soprattutto ciò che trasportano da remoto. Le case cantoniere sono un patrimonio collettivo, sono state e restano un punto di riferimento dei nostri spostamenti, potremmo dire rappresentano testimonianze archeologiche di un altro mondo, di un'altra Italia in movimento per lavoro o per svago. Punti cardinali di un viaggio, un po' come erano i fari, in parte lo sono ancora, per orientare e assistere i naviganti. Le prime case cantoniere risalgono al 1830, con quel colore rosso pompeiano che le ha rese uniche e sempre riconoscibili rispetto a qualsiasi altro edificio. Alcune di queste costruzioni ora torneranno a nuova vita grazie all'iniziativa avviata da ANAS e dal Ministero dei Beni Culturali. È stato infatti presentato il bando di gara per la concessione delle prime 30 case cantoniere. Sorgono in 8 regioni, dalla Valle d'Aosta alla Puglia, potranno essere trasformate in alberghi, ristoranti e punti di informazione turistica. Il presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani. È un progetto pilota che vuole creare un'opportunità che poi sia replicabile per 1200 case. È una rete 1200 case che non ha uguali in tutto il territorio nazionale e può creare anche opportunità di turismo specifica che attragga persone che vogliono fare questo tipo di esperienza. Un turismo che viaggia utilizzando mezzi anche più lenti, guardando le cose che sono intorno alle nostre strade. In chiusura torniamo idealmente al Brennero, dove, nonostante rincorrersi degli annunci nel corso di questi mesi, nessuna azione di controllo particolare scattata da parte della polizia austriaca su questa linea di confine. Non c'è stata alcuna emergenza migranti, ma nel frattempo Vienna ha dato seguito al piano illustrato alla fine di aprile, cioè la sistemazione di una barriera di 370 metri sulla conca del Valico. In questi mesi i lavori sono andati avanti e nei giorni scorsi il capo della polizia del Tirolo, Helmut Tomak, ha detto che gli interventi sono stati completati, la barriera in sostanza è pronta. Se sarà necessario, ha detto Tomak, in 2 giorni sarà tirata su. Questa puntata di Hashtag Autotrasporti, l'ultima di luglio, finisce qui. Il programma non va in ferie, Hashtag Autotrasporti proseguirà regolarmente anche ad agosto, quindi e noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 13.45. Grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.